stava all'angolo del bar, mi fece cenno con la mano, perché non vieni qua? Io la raggiunsi, la guardai, le chiesi che c'è, lei mi disse: voglio venire con te, le calze a rete sulle spalle, un leggero décolleté che lasciava immaginare l'abbondanza di sé. Lei fumava un havaiano tra i denti e per via di un rossetto rosé. L'impermeabile bianco nel blu della notte di frisso che scendeva di lassù, la limousine tutta nera con autista per te. E lo chiamavano Enfri gli amici, e se era preciso con la cot, lui era un duro, perché il criminale non ha scampo, già lo sa. Enfri spara e poi domande ti fa, ma una notte lei si scopre, bang bang, vieni a fare un grosso colpo alla banca con me, io famosissimo detective privato che è cara Lulu. Troppo onesto per te, proditoriamente Enfri non esitò, e senza spargimento alcun di sangue il colpo sventò, con i pezzi del suo cuore la giustizia trionfò, e come sempre solo si ritrovò. Fu lei Lulu che in galera finì, l'irreprensibile Enfri era fatto così, oh yeah, ieri Frisco, San Francisco today. Nascondi dai guai senza buchi alla pellaccia, ti riposerai, ma ogni sera il ricordo di quel décolleté indigesto è una pietra per te. Vai a cercarla e ovviamente non la trovi più, e fuggite ormai da tempo, non si vede più, si è sposata, avrà dei figli, al contrario tu, solitario vecchio bianco nel blu. i rimpianti non ti lasciano mai, sono biondi, mori, rossi e ti seguono dove vai. Ieri Frisco, San Francisco today.